Giovedì 3 aprile 2025, sono le ore 19 e 12 e al centro delle cronache non tanto italiane, ma insomma di parecchi mezzi di informazione d'oltreoceano, è il caso ancora una volta di Luigi Mangione, che va forse ricapitolato, un 26enne che qualche mese fa ha ucciso a sangue freddo Brian Thompson, il CEO di una delle principali, anzi della principale compagnia assicurativa americana. E la novità di oggi è che Luigi Mangione è stato nel corso del processo, poi in realtà ci sono in ballo addirittura tre processi, due statali e uno federale. Il primo, che dovrebbe andare a compimento, è quello dello Stato di New York. Insomma, è uscito un comunicato stampa abbastanza violento, nel perfetto stile dell'amministrazione Trump, che fondamentalmente annuncia da parte del ministro della giustizia americano, Attorney General Pam Bondi, confondo sempre due personaggi abbastanza vicini, in sostanza annuncia che il governo americano cercherà di fare in modo che venga condannato a morte. Ma sappiamo bene un po' come si stia spostando la linea tra il potere esecutivo e il potere giudiziario, un po' a targhe alterne, diciamo, nel complesso e balcanizzato scenario statunitense di questi giorni, settimane, mesi. Tante cose che prima davamo per scontate adesso non lo sono più. Comunque, ecco, io consiglio a tutti l'ascolto di un podcast della BBC che si intitola The Luigi Mangione Trial, perché è interessante, cioè è un podcast incrementale, cioè segue il fatto di cronaca, non è una, come dire, una serie preconfezionata alla fine di un avvenimento anche di cronaco storico, diciamo di storia recente, no? Abbiamo sentito per esempio in Italia dei podcast sui misteri degli anni 70, la strage di Ustica, ne abbiamo sentito uno molto bello sulla strage di Bologna prodotto da Slow News 10:25, invito tutti ad ascoltarlo. No, questo è, diciamo, un podcast di cronaca incrementale, cioè ci saranno nuovi episodi man mano che ci saranno sviluppi, e il caso sembra davvero solo agli inizi. Di tutti i tentativi per coprire questa vicenda, che naturalmente ha dei risvolti anche politici non indifferenti, mi sembra che sia l'unico che si stia almeno spingendo fino a farci fare delle domande in più. Poi in realtà in tutte le analisi che anche ascoltiamo da parte della BBC non ci si spinge fino a farsi la domanda definitiva, no? La domanda definitiva non è se Mangione sia colpevole, se debba essere condannato, se sia un assassino. Beh, io rispondo sì a tutte queste tre domande senza esitazione. Non dovremmo permettere che una persona uccida a sangue freddo un'altra persona senza dover poi specificare che è un padre di famiglia, che la famiglia è distrutta, perché già questo diventa storytelling, no? Il diritto dice altro, che tu non puoi togliere la vita a un'altra persona, e quindi sarà, diciamo, la giustizia deve fare il suo corso. Anche la disastrata giustizia americana dovrà fare, è complessa, anche perché appunto si intrecciano giudici federali, giudici degli stati, e poi sappiamo che i giudici vengono eletti, quindi insomma comunque che non c'è la responsabilità civile, anche questo va sottolineato, a differenza da quello che accade qui da noi. Le domande giuste sono, le domande giornalisticamente interessanti sono altre, cioè, no, non è se sia colpevole, no, la domanda principale è: ma come mai questa ondata senza precedenti di persone che sostengono l'eroe, cioè l'omicida, Luigi Mangione, no? io non andrei mai a ingrossare le fila di questo mondo che subisce poi le stesse logiche tossiche che sappiamo, no, di qualsiasi grande movimento identitario sui social media. Ne abbiamo visti tanti. Però la domanda rimane, cioè, perché succede? Perché questa narrativa, come dicono la BBC, why this narrative is so strong? No, questa è la domanda che dovremmo farci. Perché è così forte, fa tanta presa? È solo per via del populismo, del vittimismo, della voglia di prendersela coi poteri forti? Oppure c'è qualcos'altro? E poi c'è la domanda quasi impronunciabile, e cioè, ma davvero in tutto questo il sistema delle assicurazioni non c'entra nulla? C'è forse qualcosa da sistemare? Perché, insomma, a me, per esempio, colpisce il fatto che lui fosse un ingegnere informatico, anche molto brillante, laureato a pieni voti, e stupisce il fatto che fosse particolarmente colpito Mangione dalla circostanza che l'azienda, la sua compagnia assicurativa, aveva un sistema per non pagare i premi sempre più sofisticato, perché c'era un algoritmo che veniva istruito per trovare sempre il modo più efficace per non pagare i premi. Ecco, io credo che ci siano degli elementi su cui riflettere, anche gli elementi politici, senza per questo uscire con gli striscioni e dire che lui è l'eroe mentre l'altro era il carnefice. Ecco, senza spingerci fino a questo, però qualche domanda forse ce la potremmo fare. Così come, ecco, a me non è piaciuto molto il fatto che nel podcast un certo livello di educazione permette di capire certe giustizie sociali e permette di non lasciarsi scatenare nella guerra di primo livello, la guerra tra poveri, da un lato, e potremmo anche definire Thompson il vincitore di una guerra tra poveri. Potremmo anche definirlo in questo modo. Non mi sembra dire niente di sovversivo. Cioè, bisogna sempre stare molto attenti con le facili conclusioni. Però comunque ascoltiamocelo questo, continuo ad ascoltarlo questo podcast della BBC per il solo fatto di aver sollevato queste domande, di avermele fatte venire in mente, è un prodotto più che meritorio.